Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Io vi posso registrare cosa è accaduto nelle redazioni dei giornali quando improvvisamente c'è stata la necessità di cambiare tutte le pagine perché il Papa se n'era uscito con l'anno santo straordinario, che è un evento importante, ma non tanto per la cristianità, per gli indotti, per i riflessi, per quello che può provocare sia da un punto di vista generale, nelle opinioni generali, in un momento così difficile e così critico per tutta la cristianità, per il confronto che c'è con l'Islam, per i momenti di tensione, di terrore, di paura di terrorismo, sia anche perché in fondo un grande anno santo per molti è anche un grande affare, diciamo la verità. L'anno santo porta molti pellegrini, porta un grande passaggio di persone, un grande passaggio comunque che può in qualche maniera anche dare dei vantaggi all'economia, questo sta bene a tutti. Infatti il sindaco di Roma si è subito buttato a pesce e sta facendo la ola con tutti gli altri amministratori, cioè, finalmente Roma è pronta, ma già stanno sorgendo naturalmente le voci dei dissidenti, disfattisti, che dicono come Roma è pronta, quando è pronta, con la spazzatura, con il traffico e via dicendo. Non è soltanto un problema romano l'anno santo, Roma ne ha, diciamo, l'effetto fisico immediato, no? La ripercussione è grande, è un gesto grande, un gesto anche perché il Papa a questo punto ha già annunciato una possibile fine anticipata del suo pontificato, già si sono alzati immediatamente tutti gli esperti in profezie, facendo coincidere anche in questo caso ogni possibile quartina di Nostradamus col fatto che il Papa Nero sarà quello che lascerà il Vaticano quando i cosacchi abbeveranno i loro cavalli nelle fontane e via dicendo. Insomma, ce n'è per fare una bella riflessione questa mattina. 800 24 00 24, l'anno santo, il giubileo dell'8 dicembre che durerà fino al novembre 2016, quanto cambierà la vostra esistenza, la vostra vita o il vostro modo di pensare? Roma, così da un mese all'altro, prepararsi al giubileo, non devono trovare pure i soldi. Per Papa Francesco si fa tutto. Ce la faremo. Sarà un'occasione dopo l'Expo di dimostrare qualcosa sul valore del paese. Quindi alla fine magari sempre un po' sgangherata, con le buche sulle strade, con gli mezzi che non vanno, però alla fine ce la facciamo. Ma di solito quando ci sono questi grandi eventi non è che il lavoro aumentate molto, perché si riuniscono tutti sulla piazza, pensano poco ad andare a fare shopping. Dove ci sono appalti, lavori pubblici, c'è sempre da controllare. Visto che è l'anno della misericordia, speriamo sia anche l'anno della giustizia. Crediamo ancora che tutto ciò che è attinente alla Chiesa e al credo abbia un suo valore superiore. Questa è una Vox Populi tratta dal sito del Fatto Quotidiano, che hanno subito sentito a caldo quelle che sono le voci dei romani, che quindi le abbiamo fatte sentire per non ripetere le stesse cose che hanno già detto. Naturalmente il negoziante dice sì, vabbè, gli anni santi non hanno mai portato grandi soldi, poi vengono con gli autobus, vanno tutti negli alberghi dei preti, in fondo l'economia è magari per chi lo organizza, non tanto per la città, è soltanto un grande en passe. Ma c'è qualcosa dietro, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa da leggere in filigrana rispetto a questa dichiarazione improvvisa di un giubileo. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Vaticanista di Panorama, appena sfornato il suo libro Amore, Sesso e Tempi di Papa Francesco, edizioni PM, libro di fantasy ma anche molto legato comunque all'aspetto della realtà che Ignazio Ingrao segue e certifica ogni giorno nel suo lavoro di vaticanista. E questa mattina Ignazio ci dà un'idea in realtà di qual è, diciamo, la lettura ufficiale di questo giubileo. Perché il Papa ha indetto questo 8 dicembre un nuovo anno santo? perché è convinto che la riforma e la rivoluzione della Chiesa che lui sta portando avanti deve partire anzitutto dai cuori delle persone, e quindi deve essere appunto una conversione dei cuori. Questo è l'obiettivo dell'anno santo, che diventa un evento centrale nella storia di questo pontificato, e da cui poi naturalmente sono collegate tutti gli altri, il sinodo sulla famiglia, quindi chissà se poi rispetto ai divorziati e risposati un evento come il giubileo potrà garantire loro una indulgenza particolare, un riaccoglimento. Questo, ma quindi fammi capire, erano talmente radicali le questioni da affrontare che forse il Papa ha pensato che con un giubileo riesce a mettere tutto dentro piuttosto che andare avanti con decreti, come si suol dire, capito? Vuol da indicare quella che secondo lui è la priorità, e che non è solamente di natura organizzativa ma prima di tutto di natura spirituale, e che poi per raggiungere i lontani, e questo è ciò che a lui sta a cuore, cioè per avere una Chiesa capace di aprire le porte anche a quelli che, soprattutto a coloro che si sono allontanati, bisogna dare l'idea di un Papa, di un Dio della misericordia e del perdono. Non dimentichiamo che uno dei primi suoi atti che fece appena eletto fu all'Angelus far distribuire una sorta di scatoletta che assomigliava a una medicina, si chiamava la misericordina, una medicina per il cuore, che in realtà conteneva all'interno una coroncina del rosario dedicata alla misericordia, e quindi questo significava che questo è uno dei temi centrali del suo pontificato e del suo Ecco, questa è la versione, diciamo, la versione ufficiale. Invece, diciamo, negli angolini delle sale stampe, cosa si dice? Cosa c'è dietro questo gesto? Quale sia la meta lettura, se vogliamo, che sicuramente ci sarà e sicuramente ne avrete parlato anche fra voi vaticanisti? Lui mette tanta carne al fuoco, e questo sicuramente, oltre ai viaggi che deve fare tra il 2015 e il 2016 da Sarajevo alle Nazioni Unite, oltre al sinodo c'è anche l'anno santo. Il Papa sente di dover essere un apripista per la riforma della Chiesa, e quindi di rompere, di scuotere dalle fondamenta, anche con gesti a sorpresa inattesi come quest'ultimo. Non c'era voce su questa cosa, non era circolata la voce anticipata? No, lui se l'era tenuta per sé. Guarda che scelta di tempo, il giorno prima in una intervista lui dice, un po' ammiccando, il mio sarà un pontificato breve, e lo dice anche per ragioni anagrafiche, ma forse anche per non spaventare troppo quelli che temono le sue riforme, e poi l'indomani convoca un anno santo. E dunque, ecco, lui si sente un apripista, ma sa che poi queste riforme della Chiesa dovranno poi essere completate anche da quelli che arriveranno dopo di lui. Allora, fermi un attimo, 800240024, vorrei sapere a caldo qual è l'impressione del medio pubblico della radio di fronte a una dichiarazione improvvisa, se volete abbastanza rivoluzionaria, l'ultimo anno santo, diciamo cosiddetto straordinario, dell'83, era Giovanni Paolo II, ma erano i 1950 anni della redenzione. Qua è un gesto, sicuramente un gesto chiaro, politico, e quindi voglio anche un altro punto di vista, un'altra lettura. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini, esperto in marketing e comunicazione strategica, anche lui ha scritto un libro, Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizioni PM, siete lo stesso editore, casualmente lo noto adesso. Allora, questo cos'è? Dal punto di vista tuo, di stretta e pura analisi di operazioni di marketing strategico, cosa ha fatto il Papa? Ma intanto si sta portando avanti, perché io, come avevo anticipato, lui sostanzialmente sta facendo degli atti preconciliari, che poi si faccia un Concilio Vaticano III in futuro o meno è un fatto meno importante, perché lui sta mattoncino dopo mattoncino costruendo la riforma della Chiesa. Da un punto di vista di marketing, questa è un asso calato sul tavolo improvvisamente, in un momento in cui per esempio l'ISIS sta contribuendo a infangare l'immagine dell'Islam, lui riconferma l'immagine più forte del cristianesimo come perdonatore, e quindi è una grande azione di promozione in un momento in cui probabilmente c'è l'opportunità di fare un'ottima pubblicità al cristianesimo. Beh, c'è anche da dire una cosa, noi abbiamo trattato spesso il discorso dell'emergenza terrorismo, un momento in cui il buon senso, la prudenza potrebbe dire tiriamo su le barriere, mettiamoci le barricate, chiudiamoci dentro a chiave, affacciamoci alle finestre con i materassi per stare attenti. Lui indice un anno santo, significa folle immense, e caduta di ogni possibilità di controllo, quindi una sorta di dire andiamo a testa alta, tanta e poca la paura abbiamo che ci possano colpire. Beh, in un modo o nell'altro Roma è destinata a essere invasa. Noi prima ci aspettavamo l'ISIS, adesso ci sarà un giubileo per cui si stanno già strappando i capelli i vigili urbani e tutti gli operatori che si occupano sul territorio del coordinamento della città. Ma speriamo che ad esempio il sindaco recepisca il senso di questa cosa e non ci lasci in mezzo alla folla e all'invasione, attivando i servizi, invece di perdere tempo con operazioni abbastanza inutili come quella del nuovo logo per la capitale. Questa diciamo, è la ricaduta che avevo già detto. Allora, Ignazio Ingrao, primo SMS che mi arriva è di tipo complottista. Lo vogliono cacciare e lui mette le mani avanti. Come può essere interpretata questa reazione popolare che arriva attraverso un SMS? Ma direi che in realtà lui non si fa problema dei nemici, di coloro che lo ostacolano, anche perché sa che ha un grande sostegno popolare. Sei d'accordo sul rilancio, su quello che dice Ballardini, che è calare un asso potente sul tavolo in questo momento? Sì, senza dubbio, io ho letto il libro di Ballardini e trovo sempre molto suggestive le sue tesi. Certamente il Papa, come dire, non è che si chiude in una stanza con i suoi esperti di marketing per fare una strategia a tavolino. In realtà è un istintivo in qualche modo, anche no, una dote naturale, questo certo, una dote naturale. Si fa guidare, diciamo, da quello che è anche un po' il suo istinto di prete di strada, fondamentalmente. E sono assolutamente d'accordo sul fatto che appunto per lui quello che è essenziale è appunto la conversione e soprattutto la convocazione, e quindi chiamare quelli che vengono da lontano e da fuori, non solo a Roma in questo caso, perché questo giubileo, attenzione, poi lo vedremo nella bolla di indizione che uscirà il 12 aprile, è un giubileo che si svolgerà molto anche nelle periferie, nelle diocesi, e quindi in questo senso il Papa di nuovo spiazzerà, e sarà anche un giubileo però che chiama in causa i poveri, e quindi magari l'indulgenza la si potrà ottenere anche facendo degli atti di carità e non semplicemente facendo il tradizionale pellegrinaggio a Roma, e non solo, perché poi metterà anche in crisi la comunità internazionale, perché giubileo può anche significare remissione del debito dei paesi poveri, e sono certo che poi in relazione a questo anche farà delle richieste precise alla comunità internazionale quando andrà alle Nazioni Unite nel mese di settembre. Ecco, come vedi, come vedo, mi stai dando un quadro ancora più allargato di quello che ho anticipato all'inizio. Sarà un giubileo che fa riflettere tutti, fa riflettere anche le banche, fa riflettere anche gli organismi internazionali, il governo del mondo, perché alla fine andrà anche a in qualche maniera a battere cassa. Fermiamoci un istante perché diamo le informazioni del traffico. Volevo lasciare questa suggestione ai miei ospiti, però l'indizione all'improvviso del giubileo ha fatto sì che questa mattina su tutti i giornali si riaprisse la questione tenuta in sottotraccia dei cristiani, della strage di cristiani in varie parti del mondo, di cui si parlava molto poco e oggi è tornato nuovamente attuale. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. 800240024, giubileo straordinario annunciato dal Papa dall'8 dicembre fino al novembre 2016, dedicato alla misericordia. Stiamo cercando di capire con due ospiti in studio quali possono essere le ricadute generali. Sentiamo il pubblico. Stefano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io credo, spero, mi auguro che il giubileo sia il modo per rimettere l'uomo al centro dell'universo, del creato. Ma che vuol dire? Questo, no, lo traduca perché non capisco. Cosa vuol dire l'uomo al centro del creato? Il creato è grande, il creato è grande, bello grandino. Altro, assolutamente sì, però l'uomo è molto più importante della finanza, della quadratura dei conti. 50 anni fa Kennedy ci diceva che il PIL misura tutto tranne che quello per cui la vita merita di essere vissuta. Sarebbe bene che con 50 anni di ritardo iniziassimo a prenderli questi spunti. Ce ne spera una sorta di redenzione dell'umanità, anche delle persone, certo, che sembrano sì, spietate. A me è una lecita e ammirevole speranza. Stefano Sauro, buongiorno. Buongiorno. Sauro, il suo punto di vista. Il mio punto di vista è questo. Papa Bergoglio ultimamente si è reso conto di perdere la battaglia sulle riforme e la cricca dei cardinali è insuperabile. Ma lei come fa a saperlo? Si intende di politica vaticana? Solo per capire, perché ne sa più di me. No, sono un appassionato, sono un cattolico e ho capito, secondo il mio punto di vista, specialmente l'affermazione di Papa Bergoglio sul fatto del pontificato breve mi ha lasciato molto affaticato, perché non era da lui. Cioè che pensa? Che lo vogliono assassinare o qualcosa del genere? No, penso che le riforme per mettere in piega la Chiesa e quindi i cardinali siano insuperabili. Qualcuno sta con lui, qualcuno, come sempre accade, c'era qualcuno dalla sua parte e qualcuno contro. Lei pensa che tutto... Beh, credo che si faccia fatica a superare Bagnasco, Bertone, e hanno poteri... che il Papa Bergoglio non riesce assolutamente a debellare, quindi... E quindi questo in dire un giubileo come potrebbe cambiare gli equilibri, secondo lei, visto che è appassionato? Forse rafforzare la figura del Papa, più di quanto non lo sia già, e se, come dice lui, sarà un pontificato breve, lasciare comunque un segno tangibile su un pontificato che... era partito benissimo, ma che secondo me con i cardinali Papa Bergoglio non la spunta. Ma questa è una lettura di chi è appassionato anche di fantavaticanismo, è bello, appassionante, divertente, c'è tanta letteratura, tanta fiction, ma anche tanta realtà. Io non ho elementi per entrare in merito, adesso chiederò ai miei ospiti, cito soltanto un ascoltatore che dice: caro Nicoletti, ha subito pensato il Papa ad accogliere la sfida del terrore, la discesa agli inferi con le armi, dalla compassione inattiva, una forza. È la contrapposizione, diciamo, di rispondere con la misericordia all'aggressività. Bruno Ballardini, quello che dice l'ascoltatore, capisci che è una lettura appassionata, ma noi, come abbiamo già detto più volte, siamo tutti commissari tecnici, siamo tutti strateghi in terrorismo, adesso siamo anche tutti vaticanisti e sappiamo anche le oscure trame che si muovono in Vaticano. Però l'impressione generale è questa, un po' anche in questo è un'operazione forte d'immagine, dire quello che sfugge è un po' l'aspetto strategico. Io vorrei riallacciarmi un attimo a quello che ha detto in Grau, perché io in realtà nei miei ultimi libri non ho mai detto che il Papa ha un ufficio marketing, ma la Chiesa e il Papa utilizzano più o meno consapevolmente delle strategie che sono comuni a quelle del marketing, ma è una metafora. Ora, il discorso è questo: sul piano strategico Bergoglio è un militare, non bisogna dimenticare che lui è un gesuita, quindi sì, agisce in modo militare, quindi spiazzando l'avversario, facendo degli assalti. In questo caso ha calato una carta pesante, come dicevamo prima, anche per approfondire il sacramento centrale che è quello della remissione dei peccati, la parte centrale, il perdono del cristianesimo, quello che fa la differenza con le altre religioni mediterranee che sono un pochettino punitive, diciamo. E questo sarebbe il momento giusto, ma anche per i cattolici stessi. Beh, il Dio della misericordia è la grande innovazione, la grande novità rispetto agli altri. Vi erano soltanto vendette. Ecco. Il grande atu, il resto è violenza. Allora, il discorso è la misericordia cristiana, in questo momento andrebbe comunque riapprofondita. E il lavoro che lui stava facendo, come avevo anche detto nell'ultimo libro, è ridare valore ai valori di base, perché non sono più chiari nemmeno ai cattolici, quindi la prima conversione dovrebbe essere fatta dai cattolici stessi, e lui sta facendo questo pezzo per pezzo, punto per punto. È un grandissimo Papa che abbia poco tempo, lo dice lui, probabilmente rispetto a quello che avrebbe in mente di fare. Ignazio Ingrao, proprio per la conclusione, la lettura è chiara, è un segnale interno ed esterno. Quello interno l'abbiamo capito, se volete essere cristiani dovete essere diversi dagli altri, esserlo realmente, concretamente nella vita quotidiana. Verso l'esterno, secondo te, ha possibilità questo messaggio così spiazzante? Beh, lo vediamo, perché di fatto appunto crea simpatia e accoglienza soprattutto da chi più è lontano o si era allontanato dalla Chiesa, e quindi io penso che abbia una grandissima forza, una grandissima valenza. Ma sballo proprio del nemico in questo momento, c'ha il pugnale in mano e il mitra nell'altra mano. Beh, attenzione, perché comunque lui, oltre a difendere i cristiani perseguitati, però è molto attento a tutte le minoranze che sono vittime delle guerre, quindi che sono anche guerre tra musulmani, non dimentichiamolo. E da questo punto di vista il Papa è stato molto attento in tutti gli interventi che ha fatto ad allargare quello che è anche il quadro e l'attenzione. Ma questa mattina leggo sui giornali che avrebbe ammesso che in realtà può esistere la possibilità di reazione dura e violenta, cioè ammette la guerra se è per difendere delle vittime innocenti. Questa è una costante della diplomazia vaticana, appunto, che è la difesa, diciamo, del valore della vita e quindi quello che può essere un intervento legittimo per difendere i più deboli e la loro vita. Questo riguarda i cristiani, ma tutte le minoranze. Non dimentichiamo che è intervenuto in passato per tutte le minoranze che sono in Iraq, e lo stesso ha fatto rispetto alla situazione della Siria e via dicendo. La guerra mondiale fatta a pezzi di cui ha parlato, appunto, è una guerra che coinvolge tutti, purtroppo, e non solamente i cristiani. Ti saluto, Ignazio, che la sigla ci taglia. Grazie, Ballardini.